E interrompiamo un attimo la musica perché appunto abbiamo in linea Bologna finalmente. Ciao, ci senti? Sì, ciao a tutti e a tutte. Ok, sei in onda, raccontaci un po' che cosa sta succedendo, ma dai giorni scorsi, fin da ieri abbiamo sentito, ma anche dai giorni precedenti. Vai. Sì, da ieri c'è stata una precipitazione molto significativa per quanto riguarda la zona universitaria, le lotte sociali studentesche che attraversano l'Unibo. Come credo probabilmente tutti sanno, ieri la Celere ha aggredito una biblioteca che era stata riaperta dagli studenti dopo la provocatoria chiusura da parte del rettore, seguita allo smontaggio di alcuni tornelli che l'Alma Mater aveva imposto in una biblioteca che è storicamente uno dei centri degli studenti e delle studentesse legate ai movimenti sociali. Già da prima degli anni 70 era un punto di riferimento ed è un punto di riferimento per i compagni e le compagne. La provocazione era inaccettabile, quindi i tornelli erano stati diversi, anche nel segno di come lottare contro l'università neoliberista post Gelmini. Detto ciò, ieri la Celere ha aggredito centinaia di studenti che dopo la riapertura del 36 fatta dai compagni e delle compagne del CUA stavano studiando serenamente. Grazie alla prontezza dei compagni sono state fatte immediatamente delle barricate dentro l'università, che hanno evitato che la questura di Bologna praticasse una sorta di scuola Diaz in versione bolognese, ma la questura ha poi voluto continuare la propria iniziativa di attacco aggredendo anche quanti si erano radunati intorno a via Zamboni 38, che è la sede di facoltà che è la sede della facoltà di lettere e filosofia. A quel punto la rabbia è davvero montata e sono iniziate ben due ore di scontri che hanno attraversato tutta la zona universitaria. Ha visto un corteo composto di almeno 400 studenti che si sono riuniti dietro i cordoni dei compagni e delle compagne del CUA attaccare 3-4 volte la Celere. Ecco, oggi ci si era dato invece appuntamento in Piazza Verdi per rivendicare la libertà di movimento, le istanze che attraversano le istanze sociali, di lotta sociale che attraversano l'Università di Bologna. È un bellissimo corteo, era partito da Piazza Verdi. Dopo aver attraversato in migliaia, in maniera molto rabbiosa e combattiva, le strade del centro città, il corteo è ritornato in Piazza Verdi con la determinazione di sfilare davanti il 36, quindi la biblioteca che ieri era stata selvaggiamente sgomberata. Arrivati in via Zamboni ci si è trovati di fronte un ingente schieramento di celere, almeno una cinquantina di celerini con dietro diversi defender con i lampeggianti accesi. I cordoni hanno quindi deciso di muovere i passi. Tutto il corteo ha seguito la testa l'iniziativa dei cordoni che proteggevano i manifestanti e le manifestanti. C'è stato un importante impatto con la Celere che ha caricato anche 2-3 volte fino a quando poi il corteo ha deciso continuare a muoversi per il centro città, mentre ora che vi sto parlando il corteo si trova proprio dalle parti della stazione centrale di Bologna e il pomeriggio di lotta continua. Hai notizie di fermi o di qualcosa del genere? Sì, infatti ci sono sicuramente due compagne della prima fila fermate, ancora non riusciamo a capire se c'è la conferma di altre due compagne. Gli avvocati di movimento sono già attivi per capire se sono in stato di arresto o soltanto in stato di fermo per identificazione. Naturalmente il corteo grida a gran voce libertà per tutti e tutte. E quindi il corteo prosegue anche in questi momenti? Sì, si va avanti con gran determinazione e combattività, si va nelle zone più centrali della città, si fanno i blocchi sui viali, per l'impressione che il pomeriggio di lotta va avanti e continua. E mi sembra che i compagni e le compagne di Bologna siano molto combattivi, insomma, quindi ti ringrazio di questa corrispondenza, quindi magari ci risentiamo anche magari tra breve per sentire come vanno le cose. A dopo, ciao a tutti e tutte. Ciao.